In realtà è il campionato praticamente dell'est Europa, centro-est Europa, perché dico questo perché non ha solo squadre russe, ma ci sono squadre bielorusse, lettoni, slovacche, e quindi è un campionato molto interessante. È il secondo campionato del mondo come forza, perché la prima è la NHL, sicuramente campionato nordamericano, Canada e Stati Uniti, e poi c'è questo campionato che è nato un po' sulla scorta dell'ex Unione Sovietica, perché da lì si sono esplose le grandi, diciamo, come dire, squadre, sono rimaste nei loro paesi. E si è pensato di riunirle in un campionato che è partito nel 2008. Cosa succede? Che noi, avendo una squadra molto giovane, avendo Milano, avendo tante prospettive e più che altro avendo costruito un progetto lo scorso anno insieme ai nostri amici della KHL, stiamo pensando, anzi, cioè stiamo lavorando per poter entrare nel prossimo anno a far parte di questo campionato, che sarà una cosa molto entusiasmante ma anche molto complessa per tutta una serie di vicende, dal budget alle trasferte eccetera, però sicuramente è una cosa molto interessante, molto internazionale. Credo che molti sport vadano verso questo, e l'hockey, noi saremo i primi in Italia.